Salve a tutte e tutti, dopo 2 settimane di pausa riprendiamo Uru, la trasmissione che vuole parlare di Africa, sia attraverso la musica che notizie, tutti i venerdì alle 21:30 e ricordiamo che partiranno anche le repliche, quindi la potete risentire anche la domenica alle 10 e il lunedì alle 14. E dopo un lungo giro ritorniamo a quello, al tema che è stato il tema della prima trasmissione di Uru, e cioè, da un punto di vista musicale chiaramente, cioè Afrobeat e High Life, le musiche che vanno per la maggiore, o che andavano per la maggiore in Nigeria e in Ghana. Ma più che la trasmissione, più che incentrata chiaramente sull'Afrobeat e su Like Life, è incentrata su alcuni soggetti particolari, peculiari, soggetti di un certo notevole carisma e che, almeno da un punto di vista sociale e chiaramente musicale, hanno rappresentato una sorta di, o comunque hanno tentato una sorta di rinascita dell'Africa. Stiamo parlando in particolare di Ebo Taylor e di Baba Ani. Ebo Taylor è un musicista ghaniano che ha fatto parte di svariate band fondate da lui oppure a cui lui ha partecipato e cui destino, i cui percorsi musicali si intrecciano direttamente con quello che è un altro protagonista di questa trasmissione, cioè Baba Ani, che a sua volta si intreccia con quello che era il percorso, con quello che è stato il percorso politico e soprattutto musicale chiaramente di Fela Kuti. Sono ambedue musicisti insieme agli altri che andremo ad ascoltare nel corso della trasmissione, che hanno partecipato a varie band, in particolare la Uru Dance Band e la Revolution Dance Band, che diciamo, hanno contraddistinto la scena musicale di questi due paesi. A volte ne sono stati fondatori, a volte vi hanno partecipato, comunque con un continuo scambio di idee, di progetti e di avventure. Il primo pezzo che ascoltiamo è della Pagia Show Band, si intitola Kwaku Anansie, ed è appunto la Pagia Show Band, il cui leader è appunto Ebo Taylor, musicista del 1936 che è rientrato sulla scena ultimamente, tra l'altro con un concerto a Milano giusto il 12 di febbraio, cioè circa una settimana fa. E già a partire dalla fine degli anni 50, Taylor fa parte delle più importanti band. Che fa uno dei generi più popolari e apprezzati in Ghana, Like Life. Poi nel 62 si sposta a Londra, dove presto forma il primo gruppo di cui diventa leader, la Ghana Blackster Band, ed entra in contatto con vari musicisti africani, fra cui Fela Kuti, in quel periodo era a Londra. L'incontro cambierà il destino della sua musica, come dice lui stesso, in seguito divenne militante per la seconda indipendenza sonora della musica africana. Successivamente nel 65 torna in Ghana, si unisce all'Uru Dance Band e poi nel 1974 dà vita alla più innovativa Afro Band degli anni 70, la Pagea Show Band, per cui scrive e arrangia numerosi pezzi diventati celebri. Uno di questi pezzi diventati celebri lo facciamo ascoltare subito, si intitola Kwaku Anansie, a Pagea Show Band con Ebo Taylor. Ana bawa ngaba, we kufa mazi, we kuzeyidu. diaba asa ma fu fu ti ke si ha ban we ku dey yin barara ani ne yin ba ani ne se ku tuku ana ba won ka ba we ku fa ma ti ti ku e ku dey yin ju ani pare ma. Ricordiamo adesso i nostri social della Radio Wombat, il sito wombat.noblogs.org, dove potete ascoltare la radio in streaming e scaricare i podcast delle trasmissioni che avete perso, Twitter, twitter.com/radiowombat.fi, Facebook, facebook.com/radio-wombat-Firenze e la mail per comunicare con noi postawombat@insiberia.net. Nel Radio Wombat cresce sempre fortunatamente, quindi ci sono nuove trasmissioni che potete trovare appunto sul sito wombat.noblogs.org. L'ultima nata è Mortal Wombat, che è una trasmissione che nasce dalla volontà di far conoscere l'hip hop italiano, il venerdì alle 17. Come al solito, per avere più notizie, appunto, andate sul sito e potete scegliere trasmissioni per leggere la spiegazione della trasmissione e di tutte le trasmissioni che ci sono e che vi possono interessare. Se vi siete perso qualche puntata, andate su podcast e la potete ascoltare oppure scaricare. Una trasmissione che è in ponte, che comincerà, è Passaggio a Nord-Ovest, che sarà ogni giorno dalle 13.30 e che tratterà invece notizie della parte nord della città, notizie di tutti i tipi, diciamo. Sostanzialmente Passaggio a Nord-Ovest vuole essere una trasmissione che dà voce a chi i fatti li vive o li fa realmente, quindi le persone che vivono nei quartieri e appunto in particolare nei quartieri del quadrante nord-ovest di Firenze. È una trasmissione che appunto, come detto precedentemente, andrà in onda il lunedì alle 13.30, ma che verrà replicata tutti gli altri giorni della settimana, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sempre alle 13.30, il lunedì successivo una nuova puntata di Passaggio a Nord-Ovest con un tema diverso, un'intervista diversa oppure un intervento in studio e via dicendo. Comunque la particolarità è che i fatti che acquadrano nel quadrante Nord-Ovest di Firenze verranno raccontati da chi li vive, da chi li fa realmente, sostanzialmente. E vi volevamo anche dire che è scaduto il bando per il logo della radio, di cui abbiamo parlato nelle altre puntate. Siamo molto contenti perché sono arrivate tante idee, tanti loghi. È stato scelto un vincitore, ma naturalmente tutti i loghi, in un modo o nell'altro, visto che sono tutti veramente carini, saranno usati per magliette, manifesti e tutto. Per notizie più precise ve le daremo dopo il 12, quando alla polveriera, in occasione del mercato contadino, ci sarà la premiazione. Il prossimo pezzo è di Baba Ani con i suoi Egypt 80 e, come detto precedentemente, le Khan Animashuan Akabani, Baba Hani, un sas baritono che era il leader della sezione musicale, diciamo, dei leggendari Egypt 80 di Fela Kuti. Baba Hani è stato uno degli membri originali dell'universo musicale di Fela, a cui si è aggiunto, diciamo, già con i Kula Lo Beatles nel 1965, ed è rimasto un interprete strong, diciamo, veramente tosto, innovativo della sezione di fiati, che ha dato potenza e in un certo senso anche gloria, diciamo, alla musica di Fela Kuti durante gli anni 70. È anche stato, come dicevamo precedentemente, questi soggetti che suonano, però sono anche leader, soggetti carismatici, diciamo, per quanto riguarda un rinascimento da un punto di vista sociale e politico africano. Appunto, Baba Hani è stato anche uno dei rappresentanti principali del Movement of the People, il partito radicale, diciamo, di sinistra, fondato da Fela Kuti. Il prossimo pezzo è uno dei più conosciuti dei Baba Hani e dei suoi Egitto 80, e si intitola Serere. Baba Febiaco, il mio menitio te un pe. Thank you. If you want to get justice, better practice justice. The right one, Panyo. Serere ajaye pe osika no asipe o sugbo ba fe bi ako a o ni lo lai irise eye eyin omode you be children eyin alaga you be adults eyin oluko you be teachers eyin agbe you be farmers eyin onilu you be musicians eyin you be politician, that's right. And you're lover, you be policeman, that's right. And you're local, you be shaja, that's right. And you're morphine, you be liar, that's right. And you're brothers and sisters, that's right. And you're brothers and sisters, that's right. And you're balaye, traditional rulers, that's right. And you're nishegun. Se avete sentito in queste settimane che l'Italia ha fatto un accordo con la Libia, accordo che ricalca il processo di Khartoum, cioè un accordo fatto dall'Unione Europea, perché la fortezza europea, oltre a dispiegare filo spinato lungo i suoi confini, ha fatto questo accordo con alcuni paesi africani in larga parte del Corno d'Africa, cioè i due Sudan, il Kenya, la Somalia, l'Etiopia, l'Eritrea e Djibouti. L'accordo non dice una parola sugli accessi irregolari, sullo status di rifugiati, ma parla solo di controllo in cambio di soldi. quindi rafforzamento delle frontiere di quei paesi e delle polizie nazionali. Nel Sudan la Rapid Support Force, la milizia che controlla i flussi migratori, è nota per gli attacchi ai civili, per le violazioni di diritti umani e per l'assoluta impunità. L'altro punto è quello della costruzione, sempre con i soldi europei, di centri di ricezione. Il rischio è che i migranti finiscano per un tempo molto lungo, se non indefinito, in questi centri che sembrano avere funzione di detenzione e contenimento più che di ricezione. Per impedire ai migranti di arrivare in Europa, questa fa accordi con paesi come l'Eritrea, che ha un regime al potere dal 1991, che ha instaurato, parole dell'ONU, una sorveglianza di massa, per cui, per esempio, per spostarsi da una città a un'altra bisogna chiedere il permesso alla polizia. L'Italia svolge un ruolo primario nell'accordo con l'Eritrea, dato che 2,5 miliardi li pagheremo noi. Su questo accordo magari ne riparleremo, ma solo una considerazione. La cooperazione europea si vantava di tener conto del rispetto dei diritti umani come dato irrinunciabile. Ora al centro invece c'è solo il contenimento del flusso di esseri umani e il fatto che questi siano alla mercé di regimi autocratici e polizie violente e corrotte non è importante purché sia lontano dai nostri occhi. E questa è Uru, trasmissione di suoni, e appunto come avete sentito proprio adesso, notizie dal continente africano. Ricordiamo Uru su Radio Wombat tutti i venerdì dalle 21.30 e in replica sempre chiaramente su Radio Wombat la domenica alle 10 e il lunedì dalle 14. Ritorniamo a Ebotelo dopo Babani, ricordiamo appunto le sue tappe a partire dalla fine degli anni 50. Inizia a sperimentare Lightlife, nel 62 si sposta a Londra dove forma la Ghana Black Star Band, nel 65 torna in Ghana e si unisce alla Uhuru Dance Band, appunto con cui abbiamo un rapporto affettivo visto che appunto la nostra trasmissione si chiama Uhuru, nel 74 dà vita alla più innovativa afro band degli anni 70, la Pagia Show Band, di cui abbiamo sentito un pezzo, il primo pezzo che abbiamo trasmesso. Alla fine degli anni 70 inizia a incidere da solista, sviluppando un proprio stile che inizia a svelare la sua personale combinazione di tradizioni ghanesi, afrobeat, jazz e funk, che comincia a lavorare come produttore realizzando anche album per artisti come Pat Thomas e Seiki Man, e affermandosi come figura di punta appunto della musica africana. Ma gli anni 80 e 90 sono difficili per i musicisti ghanesi e Telo lavora da indipendente continuando a girare vari paesi. Dal 2001 aggiunge un nuovo capitolo alla sua lunga carriera, cominciando a insegnare ai live e chitarra jazz all'Università del Ghana e via e via e via, fino ad arrivare nel 2010 e le superstar dell'hip hop americano Usher e Ludacris catapultano Ebo Taylor sulla scena globale della musica grazie al sample del brano Heaven. Ricordiamo che nel 2010 Ebo Taylor ha già 74 anni e Ebo Taylor vive questa ventesima giovinezza e ricomincia a fare tournée, a salire sul palco fino adesso, fino a questi giorni, per poi continuare, perché appunto il tour che l'ha portato per tre date in Italia adesso sta continuando in altri paesi europei. Il prossimo è appunto un brano di Ebo Taylor da solista, sempre un incrocio tra afrobeat, live, jazz, funk, appunto uno dei brani più significativi e esemplificativi della musica Ebo Taylor, e si intitola Atuer Abroba. Anche questo è un brano abbastanza lunghetto, sono 7 minuti, così come quello precedente era di Babane, era di 10 minuti, ma questa è appunto una caratteristica dell'afrobeat e del Glide Life. Ebo Taylor con Atuer Abroba. Sorry, person. Now all gone. Nation be sent. hammer color. Thank you. Diamo un'occhiata ora alle iniziative che ci sono in questa settimana. Domani alla Polveriera dalle 18.30 ci sarà hip hop e spettacoli di magia con vinyl set rap, tutto per benefit spese legali di Via Toselli. Nella serata invece ci sarà una DJ set reggae dub, Soul Rockers più La Svolta più La Romola Pos all'Emerson, CSA Nest Emerson di Via di Bellagio 15. Anche questo benefit, però BSA, le Brigate di Solidarietà Attive. Domenica 26 febbraio al Presidio No Inceneritore, sulla terra dove vogliono fare l'aeroporto e l'inceneritore, ci saranno iniziative dalle 10.30 alle 17, compreso un pranzo sociale, installazione di panchine, autocostruite, eccetera. Mentre mercoledì 1 marzo c'è un'assemblea di non una di meno verso l'8 marzo alla Facoltà di Architettura in Piazza Ghiberti alle 18. Sempre Urus, sempre Radio Wombat, vi ricordiamo il sito di Radio Wombat, wombat.noblogs.org, da cui appunto potete ascoltare in streaming le trasmissioni in diretta e anche in differita, cioè le repliche, e appunto da cui potete scaricare i podcast, cioè le registrazioni delle trasmissioni per ascoltarle quando piace a voi. L'account di Twitter è su twitter.com chiaramente /radio wombat fi, account Facebook è radio-wombat-firenze, l'indirizzo di posta elettronica per suggerimenti, proteste, insomma quello che volete, idee, posta wombat@insiberia.net. Ritorniamo alla musica della nostra trasmissione. Il prossimo brano è dei Kula Lo Beatles, la prima band formata da Fela Kuti già nel 1961, in cui ancora si intravede l'afrobeat, ma in cui le basi musicali, le sonorità, diciamo, e la scena in cui si muovevano i Kula Lo Beatles era ancora quella High Life. Infatti il pezzo si chiama High Lifetime. Tutto ciò prima ancora che Fela Kuti compisse in viaggio negli Stati Uniti, dove rimase affascinato dai movimenti di emancipazione afroamericana, primo fra tutti chiaramente i Black Panther Party. E in questi Kula Lo Beatles suonavano sia Babani, che abbiamo sentito precedentemente, sia Bo Taylor, che apportava appunto le sonorità High Life. Kula Lo Beatles con High Lifetime. It's high life time, come on in time, and jump for joy at this swinging club. It's brand new quiz that breaks the quiz. It's got the beat, it's got the hit. It's high life time, come on in time, and jump for joy at this swinging club. this brand new grace that wrecks the grace. It's got the beat, it's got the heat. Of the beat, his latest grace, his brand new grace, his brand new grace. It's got the beat, his latest grace, his latest grace. Hey, yeah, yeah, whoa, whoa, whoa, latest grace. It's got the beat, it's her lifetime, the morning time. And jump for joy at this swinging club. It's brand new grace that breaks the grave. It's got the beat, it's got the heat. Jump for joy at this swinging club. It's brand new grace that breaks the grace. It's got the beat, it's got the heat. It's our lifetime, the morning time. And jump for joy at this swinging club. It's brand new grace that breaks the grace. It's got the beat, it's got the heat. It's got the beat, the latest craze. Hey, yeah, yeah, the latest craze. This brand new craze. Whoa, whoa, whoa. Hey, yeah, yeah, it's got the beat. It's her lifetime, my morning time. And jump for joy at this swinging club. This brand new craze that breaks the grace. It's got the beat, it's got the heat. E questo è Uru, fate notizie dal continente africano e appunto come notizie parliamo ora della compensazione della biodiversità, tra virgolette chiaramente, perché questa è l'ultima trovata delle multinazionali minerarie agricole per devastare gli ecosistemi e passare per difensore della natura. In questo caso facciamo un punto su quello che ha fatto e quello che sta facendo l'azienda multinazionale anglo-canadese Rio Tinto QMM in Madagascar. È un'assurdità oltre che un'ingiustizia che ci tolgano la foresta dichiarando di doverla proteggere per poi continuare a devastarla con le loro miniere. Queste sono le dichiarazioni dell'assemblea del villaggio di Ansons, una piccola comunità nell'estremo sud di Madagascar, ma le cui proteste potrebbero essere estese a tante altre piccole e grandi comunità africane. E nel settembre 2016, per la terza aperta, Giulia Franchi, una attivista ma anche una giornalista della di Re Common, ha deciso di tornare alla grande isola e raccontare, questa volta con un video, la truffa della biodiversity offsetting, quell'illustre sconosciuto, per dirla con le parole di Giulia Franchi, che sta facendo la fortuna di tante mega multinazionali minerarie, ma non solo, e la miseria delle comunità in giro per il mondo. Di cosa si tratta? Da alcuni anni alcuni soggetti hanno cominciato a utilizzare in maniera sempre più frequente una strategia nota come compensazione della biodiversità. Questi soggetti, e poi sono sostanzialmente delle multinazionali, del settore minerario, dell'agricoltura industriale e della costruzione di grandi infrastrutture, istituzioni finanziarie internazionali come la Banca Mondiale e la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo, ed anche alcune grandi organizzazioni internazionali per la protezione della natura. Secondo tali soggetti, il meccanismo della compensazione della biodiversità aiuterebbe a proteggere la diversità biologica, e cioè le foreste, gli insetti, gli uccelli e le attività spontanee degli ecosistemi ad essi collegati, perché ogni ettaro di terreno viene distrutto attraverso le loro operazioni, la biodiversità e l'attività degli ecosistemi collegati a quello stesso ettaro di terreno saranno protette o ripristinate altrove, un po' come il discorso dei volumi zero di Renzi sostanzialmente, cioè non costruisco qui ma costruisco da un'altra parte, magari costruisco da un'altra parte perché da un'altra parte è più redditizio, in questo caso sfrutto qui e riproduco da un'altra parte quello devastato qui perché da un'altra parte chiaramente si può fare, mentre invece qui sfrutto la miniera, quello che c'è nel sottosuolo e via dicendo. E quello appunto della multinazionale mineraria anglo-canadese Rio Tinto, nella regione di Anosis, sud-est del Madagascar, una delle isole dal punto di vista biologico e culturale più variegate del mondo, è forse il progetto di compensazione più pubblicizzato. L'obiettivo sarebbe quello di compensare la perdita di biodiversità derivante dalla distruzione della foresta costiera unica e rara, legata all'apertura di una miniera di ilmenite, un minerale raro di ferro costituito da ferro e titanio, a Fordofen, nel sud del paese, con l'introduzione di restrizioni all'uso di un'altra foresta a circa 50 km a nord del sito estrattivo. Ma nelle lunghe chiacchierate con gli abitanti del villaggio, dove le restrizioni all'uso della foresta sono già in atto da tempo, cioè la multinazionale può devastare la foresta, gli abitanti che sostanzialmente vivono lì da sempre e che di fatto sono i proprietari della foresta e comunque quelli la utilizzano per le proprie attività vitali, hanno già un sacco di divieti nell'utilizzo della stessa foresta. E questi abitanti, l'assemblea del villaggio, diciamo, ha rilevato che il quadro reale è molto diverso dalle storie raccontate dai soliti opuscoli patinati distribuiti dalla multinazionale. La sussistenza degli abitanti del villaggio, circa 1000 persone, come prima sopravvivevano solo grazie alla foresta, è praticamente compromessa. Quindi è inutile ricostruire una foresta a 50 km di distanza o a 100 o a 1000 con i soliti insetti o i soliti animali. Prima di tutto perché la ricostruzione al di fuori di un ecosistema, anche da un punto di vista meteorologico, non potrà mai essere la stessa. Ma soprattutto perché lì ci vivono anche delle persone che non saranno mai compensate rispetto alla distruzione del loro habitat naturale da cui traggono l'alimentazione, la loro socialità e via dicendo. erano state assicurate infatti alternative in grado di generare reddito, ma non si sono mai materializzate, mentre il territorio è mai cosparso di vieti, vietato coltivare la manioca, vietato raccogliere la legna da ardere, vietato tagliare gli alberi per costruire le piroghe per la pesca. Un'attività fondamentale per gli abitanti del luogo. E così i residenti del villaggio sono stati in una situazione disastrosa. La comunità è stata costretta ad aprire campi per coltivare la manioca su dune di sabbia a vari chilometri di cammino dal villaggio, ma il rendimento da questa produzione agricola è basso e le famiglie non possono nemmeno più sfamarsi. Anche la pesca nelle lagune e nel mare lungo la costa è compromessa, perché senza nuove piroghe non c'è modo di sostituire quelle usurate. In sintesi, la compensazione della biodiversità si traduce in un doppio furto di terra, portata via alle comunità non solo laddove si scavano miniere o si costruiscono infrastrutture, ma anche nelle zone si prevede di utilizzare per la compensazione, con effetti devastanti sulla popolazione che vivono in entrambi i siti. Per descrivere tutto questo è nato Your Mind, il breve documentario di Stefano Martone e Fosco D'Amelio, prodotto appunto dall'associazione Re Common, che, affidandosi alle voci e ai volti degli abitanti di Anzonzo, presenta con semplicità e chiarezza come davanti al profitto non ci sia più limiti da parte delle multinazionali, ma che nello stesso momento le popolazioni si stanno organizzando dal basso per contrastare l'ennesimo furto di terra. Your Mind si dimostra come si cerca di distruggere impunemente e legalmente un territorio così come l'esistenza di cigi vite, arricchendosi enormemente e passando per la mia la natura. Nello stesso momento Your Mind dimostra anche che è possibile organizzarsi e tentare di contrastare le multinazionali. Adesso passiamo a Segun Buknor, anche lui nigeriano, che anche lui da giovane ha partecipato ai Hola Lubitos, il gruppo che abbiamo sentito prima di Fela Kuti. Dopo poi è passato e ha fondato un suo gruppo con marcate tendenze soul. I suoi testi sono politici, come chiunque abbia avuto a che fare con Fela Kuti, e anche qui è sull'indipendenza nigeriana, contro lo sfruttamento delle multinazionali del petrolio sulla costa nigeriana. E infatti, come si capisce dal nome del suo gruppo, infatti il gruppo è Segun Buknor e His Revolution. La canzone è La La La. ricordiamo che state ascoltando Uru su Radio Wombat e vi ricordiamo i nostri social, il sito wombat.noblogs.org, Twitter, twitter.com/radiowombatfi, Facebook, facebook.com/radio-wombat-firenze e la mail postawombat@insiberia.net. E come sapete abbiamo un'attenzione particolare per un paese dell'Africa, cioè l'Etiopia, proprio perché lì si sono, l'Etiopia è stato uno dei paesi, insieme alla Libia, insieme all'Eritrea, in cui si è esplicato il colonialismo italiano durante, prima e anche durante il fascismo, in cui si sono compiuti tali massacri da parte delle truppe coloniali italiane che non è possibile appunto dire italiani brava gente. E la notizia è la morte purtroppo di Pankhurst, di Richard Pankhurst, che forse il pubblico italiano come al solito non dirà molto, ma per gli appassionati di Africa, in particolare l'Etiopia, il professor Pankhurst, morto il 16 febbraio all'età di 90 anni, se non una leggenda ci andiamo vicino, e lo è stato per la stessa Etiopia che lo ha salutato appunto ieri con una dichiarazione ufficiale del governo come un decano degli storici e studiosi dell'Etiopia, uno dei più grandi amici dell'Etiopia durante la sua lunga produttiva vita. Il professor Pankhurst era inglese, era figlio dell'anarchico italiano Silvio Corio e della suffragetta comunista Silvia Pankhurst, e quindi potete ben capire che il suo approccio al colonialismo e alla storia dell'Etiopia, proprio nel solco di quello che erano gli insegnamenti e la vita dei genitori, sia stato veramente come dire, un approccio antiimperialista e dal basso, e diciamo in cui dava vita, in cui dava voce alle persone, all'assemblearismo, alla costituzione, diciamo, dal basso delle varie comunità e via dicendo. E quindi Richard Pankhurst, dopo la madre si era trasferita in Etiopia dal 1956, dedica tutta la sua vita agli studi di questa nazione, scrive più di 20 libri sulla vicenda, sull'Etiopia, a cui si aggiungono molti articoli, analisi su diversi aspetti della storia e della cultura etiope. Tant'è che successivamente gli si aprono le porte dell'Università di Addis Abeba, dove insegna per anni. Quindi il suo amore per l'Etiopia continua anche dopo la morte del Negus e anche dopo aver lasciato l'Etiopia nel 76. Continua a studiarla e nell'86, dopo un decennio di assenza, ci torna e si mette alla guida della campagna per il ritorno in Etiopia dell'obelisco di Assum che il regime fascista aveva portato in Italia. Una campagna che avrà successo, tanto l'obelisco verrà riportato in Etiopia e sarà nuovamente eretto ad Assum nel 2008. Ricordiamo che inciso il 2008 era nello strano calendario etiope, era il 2000 per l'Etiopia, il 2008 è nel nostro calendario. Per il suo impegno e per i suoi studi ha ricevuto numerosi premi, tra cui numerosi premi da parte delle comunità etiopi, diciamo delle comunità accademiche di quel paese. Questa è una notizia che volevamo dare, proprio perché magari stimola anche sia alla lettura dei libri di Richard Pankhurst e sia alla lettura dei libri sull'Etiopia. Il prossimo pezzo è di Oscar Sulle della Eurodance Band. Ricordiamo di questa Eurodance Band, ne abbiamo già parlato precedentemente, come una delle band in cui fondata, in cui aveva partecipato e cui era uno dei leader Ebo Taylor. Poi successivamente Ebo Taylor ha iniziato la propria carriera solista. Oscar Sulle, diciamo, è diventato il nuovo leader della band, proseguendo nel solco di quella che era una delle band più innovative dell'afro jazz e dell'afrobeat africano, e appunto il prossimo pezzo si intitola Olufeme, e Oscar Sulle e la Yuru Dance Band. Olufemi, sorrow, my for what do me? All of me, all of me, all of me. Questa era la nostra ultima canzone di stasera, ricordiamo che state ascoltando Uru. Se avete perso l'inizio o una parte della trasmissione potete ascoltarla in replica la domenica alle 10 o il lunedì alle 14, oppure potete andare sul sito wombat.noblogs.org nella sezione podcast e scaricare questa e le altre passate. Noi ci risentiamo venerdì alle 21.30. Ciao a tutte e tutte, alla prossima.